Eccoci qua, ti dedico tutto, Biagio Antonacci, Radio Fermo 1, questa è la nostra pausa caffè e non vi nego che mentre voi ascoltavate Biagione io sorseggiavo un caffè già dietro le quinte in compagnia della mia ospite, ve l'avevo anticipata, abbiamo diffuso la notizia anche sui social dove lei è molto molto attiva, è Barbara Ciccola. Ciao Barbara, benvenuta! Ciao, buongiorno a tutti, un saluto da Reggio Emilia verso la mia terra, verso il Fermano. Ecco, sottolineiamo che tu te ne sei andata da questa terra, ma qui sei nata e qui sono le tue origini e qui soprattutto torni d'estate per le vacanze. Sì, faccio dei lunghi periodi, vabbè, ogni tanto torno qualche fine settimana, qualche piccola incursione, però il periodo di 2-3 settimane vacanziero me lo faccio sempre, insomma, e il Lido ritorna sempre. Senti, due o tre domande per conoscerti un po' meglio. Tu nella vita che cosa fai? Qual è la tua professione? Allora, io sono un'insegnante, sono laureata in filosofia, sono un'insegnante e sono qui a Reggio dal 2000 circa, per motivi professionali e personali mi sono trasferita e poi, come tante cose nella vita, insomma, si cambia, ci si trasforma eccetera, e ho, al di là della mia professione, insomma, che è quella di insegnante, ho iniziato a coltivare una mia passione che mi accompagna da tanto tempo, che è il viaggiare, e mi sono affacciata un po' al mondo dei social. Le cose arrivano un po' per caso e un po' invece per fortuna, e un paio di anni fa ho conosciuto chi ha fondato Non Solo Turisti, che è un blog abbastanza famoso, insomma, in Italia di turismo. È nata un'amicizia, insomma, una conoscenza così, e una stima reciproca anche, e l'anno scorso a ottobre mi hanno chiesto una collaborazione per un loro progetto con Perugia Capitale Europea, era stata appunto candidata come capitale europea, sì. per un lancio. Io sono andata, è piaciuto quello che ho fatto e ho detto a Marco Allegri se avrebbe avuto piacere di condividere nel suo social le mie esperienze di viaggio. E così, insomma, siamo partiti senza un progetto vero e proprio, ma alla fine è nato un progetto di collaborazione. Dunque io condivido con loro le mie esperienze di viaggio e loro, se hanno occasione, insomma, con i miei tempi, perché logicamente lavorando ho dei tempi abbastanza stretti, viaggio per loro, insomma, e per enti turistici che si appoggiano a Non Solo Turisti per alcune promozioni. Praticamente questa estate ti sei detta: ma perché non raccontare il mio ritorno a casa e non raccontare di conseguenza il Fermano? Da lì sono nati praticamente 4 post che i nostri ascoltatori possono trovare, poi li linko anche sulla pagina Facebook della radio, però sul sito nonsoloturisti.it li trovano. Sono 4 post che raccontano in realtà che cosa, quali aspetti della nostra regione. Allora, io mi sono soffermata proprio sulla mia terra, cioè sul Fermano, proprio quel triangolino, perché ho sempre ritenuto, ma non è insomma che lo sto inventando io, che quella è veramente una terra ricchissima di tante cose. Ho viaggiato un pochino, forse non tantissimo, ma ritengo che comunque la ricchezza che c'è in quel triangolino lì è veramente invidiabile, perché vabbè, dalla frase banale hai tutto, dalle colline al mare fino alla montagna, ma oltre questo, quello che visivamente si può vedere, c'è anche proprio un calore delle persone, un'accoglienza che raramente si trova in certi termini. E niente, io così, parlando con delle persone con cui naturalmente continuo ad avere relazioni, amici eccetera, e mi sono chiesta: perché non promuovere attraverso questo canale così vivo, insomma, le cose che conosco, e anche riaggiornarle, perché comunque io, mancando da 15 anni, se non appunto per periodi molto stretti, alcune cose le avevo perse, comunque si sono trasformate, e ho iniziato così a girare per paesi. Ogni giorno mi facevo un paese, ogni giorno facevo una piccola esperienza, le persone che conosco mi dicevano: ma guarda, ci sarebbe questa realtà o ci sarà quest'altra, e sono nati questi 4 posti in pratica, che vanno da Fermo a Porto San Giorgio fino all'entroterra e Sibillini, con degli affondi su 4-5 paesi in 2 posti ciascuno, proprio nell'entroterra e nelle colline, che hanno veramente delle risorse umane e ricettive ricchissime. Io ho ritrovato le Marche comunque completamente trasformate dal punto di vista turistico. È vero che io non sono stata mai alla ricerca magari di un bed and breakfast 15 anni fa o di chissà quali altre alternative turistiche, perché io ho una casa lì, dunque non ho bisogno di ricercare questo, ma il fermento che ho visto, le macchine targate dalla Gran Bretagna fino al Belgio e le tante persone che popolano comunque anche l'entroterra, mi ha colpito piacevolmente, e non ti nascondo a dire anche le tantissime attività familiari che comunque si sono aperte al turismo. Dunque ho ritrovato persone che conoscevo magari e che avevo lasciato, che avevano 15-16 anni, che ora ne hanno 30, hanno messo su famiglia, hanno aperto i bed and breakfast che sono splendidi, che non hanno niente che invidiare con tanti in cui io sono stata, tipo in Francia o in Gran Bretagna, e che hanno quel sapore che comunque rimanda alla familiarità delle Marche. Quando io dico, per esempio, in un posto, quello su Fermo e Porto San Giorgio, che il Fermano è un territorio in cui è possibile avere un turismo in dialogo con strutture ricettive di territorio, voglio dire che andare nelle Marche in vacanza vuol dire proprio stare a casa dei marchigiani e vivere la marchigianità, ma proprio ti viene in maniera naturale, perché comunque le porte delle case marchigiane si aprono con una tale facilità che la si apre sia per la persona che si conosce che quella che si viene ad accogliere. Beh, hai sintetizzato al meglio tutto quello che poi in realtà volevo chiederti con una serie di domande e sollecitazioni, per cui credo ho che... parlato troppo come no, al solito. Ma scherzi, è un piacere ascoltarti. Grazie, mi dispiace solo che tu abbia perso l'accento marchigiano. Ma guarda, in realtà appena torno o appena telefono con qualcuno che non sia la radio, in cui naturalmente trovo una persona che ha altrettanto un'ottima dizione, la riprendo immediatamente. Mio marito mi dice: ricomincio a parlare col tuo strano slang. Tuo marito è romagnolo? Emiliano, sì. Emiliano, ok. Barbara, io ti terrei qui veramente a lungo, ma i miei tempi non lo permettono. Certo, devo andare a lavorare, devo ritornare nella mia prima vita o seconda, non a lo scuola. So. Io saluto Marco di nonsoloturisti.it, spero che anche con lui ci sia modo di risentirsi, come con te, così ci raccontate i vostri viaggi e ci aiutate anche a programmare i nostri di viaggi, e saluto tutti i tuoi amici che ti stanno ascoltando sullo streaming di Radio Fermo 1, perché ho visto su Facebook che sono tantissimi, ti hanno promesso che ci sarebbero stati, allora mi sembra doveroso salutarli. Grazie Mary, ciao, un bacio a Fermo, ciao.